Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E di ritorno in diretta dagli studi di Piazza Nardi per presentare un Last Minute in linea con la rubrica del mercoledì, perché sarà una presentazione letteraria che avrà luogo alla confraternita dell'Uva questo venerdì 24 maggio. Intanto, per saperne di più, siccome se ne è occupato Lorenzo, che mattiniero, è già qui in diretta con noi. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti. Condizioni meteo e condizioni traffico. Meteo lo vediamo, hai portato il sole, quindi grazie. Per questa rarità ormai di questi tempi, vedere una giornata così serena. Traffico, che ti muovi in bicicletta. Non ho visto tanta gente per le strade. Si vede che alle 7:15 ancora preferiscono stare nel letto e ascoltano il Breakfast Club. Magari iniziamo a dare qualche indicazione culturale a proposito di letteratura e presentazioni. Hai avuto la possibilità di contattare una protagonista origine napoletana che arriva con un tour di presentazione anche alla confraternita dell'Uva, e per saperne di più intanto di chi si tratta e di che cosa si tratta, Lorenzo. Si tratta di Federica Ottombrino, magari conosciuta ai più come musicista e cantante. Lei infatti ha cantato nel duo Fede e Marlene, con cui ha condiviso il palco anche con artisti celebri tra cui Nada e Levante, e verrà a Bologna per presentare il suo nuovo libro, il suo primo libro, Il Baule. Il Baule è un libro che parla di questa donna che si trova nel Golfo di Napoli e si innamora di una casa grande a Capo Miseno, e da qui nasce una discendenza che vivrà questioni, avventure, situazioni che porteranno il lettore a una ricerca della propria casa, di qual è il concetto di casa, come vista, come pelle in cui abitare, del potere dell'immaginazione che ci può far vedere oltre la vita e oltre la vita, quella razionale, quella tra virgolette reale, e come strumento infatti per una lettura della realtà e come coraggio per intraprendere e inseguire i propri sogni. E tutto questo attraverso un ritrovamento molto particolare, che è parlato di immaginazione. Nelle nostre immagini c'è ritrovare in soffitta, no? Questo oggetto che è tanto misterioso quanto capiente, indipendentemente dalle dimensioni, perché come hai detto giustamente, l'immaginazione è qualcosa che va oltre alla grandezza di un baule, è il contenuto e soprattutto quello che c'è dentro di noi poi nella lettura. Sentiamo allora le parole di Federica Ottombrino per questa anticipazione al Last Minute di oggi. Di cosa parla questo libro? Cosa ci può dire a riguardo? Buongiorno a tutti. Allora, questo romanzo, Il Baule, diciamo, è nato per caso. Io adoro scrivere, ma non stavo cercando, diciamo, un romanzo da scrivere in quel momento della mia vita, però è accaduta una cosa incredibile, forse il sogno di tante persone, cioè ho trovato effettivamente un baule pieno di lettere. Ho abitato in questa casa sul mare, in provincia di Napoli. Questa casa era stata abbandonata, quindi oltre a vestiti, elettrodomestici, mobili antichi di questa donna che aveva abitato la casa e dove era morta negli anni 90, ho ritrovato questo baule con lettere, fotografie, diari. Ho cominciato a leggerli, a appuntare delle cose, e poi questi appunti sono diventati un libro. A volte ci dimentichiamo dei processi, dei contesti che stanno attorno alla scrittura del libro, che rappresentano parte dell'essenza del libro stesso. Per lei com'è stato scrivere questo libro? È impegnativo, perché io ho sempre scritto canzoni. Nonostante sia impegnativo anche scrivere canzoni, sicuramente a un libro devi dedicarti con una costanza e una puntualità diversa da quella legata alla musica, che cavalca un'ispirazione. Il libro poi diventa un appuntamento, non voglio dire quotidiano, ma quasi. E torni e ritorni a rileggere delle cose, a ricucirle, a scriverle in un altro modo. Diciamo, c'è un impegno diverso. E io, quello che dicevo in quei giorni, che quando scrivi un libro lo scrivi sempre. Il momento in cui ti metti a computer, diciamo, è la fase finale, ma lo stai scrivendo quando vai a fare colazione al bar, mentre parli con le tue amiche. Tutto può essere un input che diventa la chiave poi per svoltare quel capitolo. Quindi sei sempre così, ricettiva verso il mondo. Baricco diceva, sì, ad esempio, che lui quando scriveva i libri era insopportabile. Lei com'è stata durante la scrittura del libro? Sì, forse anche a parte che, volendo poi contestualizzare questa storia, ero continuamente a fare domande, quindi incontravo delle persone magari di una certa età, mentre stavamo così chiacchierando del più e del meno, mi racconti il fascismo, com'è stato per te? Quindi sì, secondo me ero un po' insopportabile, sì. E che il mio cuore adesso è una dimora, non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano, non coprire col rumore i miei battiti. Ed io non voglio anelli alla mia mano, non far coincidere i miei baci a dei vincoli. Tu smetti di insegnarmi a riordinare ingoie vuoti che violenti ti parlano. Paura, io stringo i pugni e tengo gli occhi socchiusi. Guardo il bambino che non è mai nato, stracciato vivo per non perdermi al buio. Tu passi il dito sulla polvere e alcune cose le ho lasciate per perderle. Per stare insieme forse a questo serve, arrampicarsi sulla cima del tempo. Abbiamo anticipato, cantautrice, scrittrice, in questo caso con Il Baule, Federica Ottombrino, il brano che stiamo ascoltando, Piramidi, da stacco musicale tra un brano di intervista, di conversazione e l'altro, tenuto da Lorenzo, per anticipare la presentazione che sarà alla Confraternita dell'Uva in via Belmeloro questo venerdì alle ore 18.30. Perché consiglierebbe agli ascoltatori di leggere il suo libro? Oddio, questa è una domanda difficile, perché c'è dentro condensata tutta la mia vita, tutto il mio impegno, e perché è stato per me una piccola rivoluzione. A parte iniziare una cosa e finirla ha sempre in sé qualcosa di magico. Alla fine del libro poi mi sono permessa di aggiungere una lettera ai lettori e alle lettrici, cui diciamo incoraggio le persone a prendere in mano il proprio talento, il proprio sogno e cercare di portarlo avanti. E sembra un po' una frase di buonismo, però è veramente quello che io spero il mio libro possa fare, cioè risvegliare la voglia di fare delle cose, il coraggio, perché oggi veramente siamo sempre buttati giù, non siamo mai all'altezza, non vale mai la pena di iniziare qualcosa di coraggioso. Invece secondo me essere pionieri in qualcosa che ci riguarda e ci interessa è il senso della vita, credo. Infatti quando qualcuno mi chiede che lavoro fai e io dico faccio la musicista e adesso ho scritto un libro, poi mi viene detto no, dico di lavoro, sì, di lavoro faccio questo. Sì, è così. Quando e dove ci sarà la presentazione del Baule a Bologna? Finalmente il 24 maggio arrivo con il mio libro e poi io ho scritto un disco abbinato al libro che si chiama proprio Canzoni dal Baule, ispirato ai personaggi del libro, che sempre in questa logica un po' del vivere in un modo controtendenza, per il momento questo disco è soltanto fisico, cioè ho stampato CD ma non ho voluto caricarlo su Spotify perché viaggia con me per il momento, non nel virtuale. Lasciato i dischi in questa etichetta fiorentina l'ha prodotto e quindi presenterò sicuramente in primis il libro alla vineria La Confraternita dell'Uva il 24 maggio alle 18:30 e poi suonerò qualche brano, perché questa cosa poi secondo me rende anche più facile la presentazione del libro, cioè la musica poi è sempre un canale di accesso più immediato. Sì, poi avrò Rossella Vetrano e Simona Cantelmi che mi faranno da relatrici, che sono due giornaliste, Simona è anche una scrittrice, quindi sarò circondata e sostenuta da... Mi piace anche l'idea che una di loro sia proprio di Bologna, quindi che il libro passi attraverso la voce di una bolognese e speriamo di avervi in tanti. Le auguro una buonissima giornata, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti, a presto. A presto, ciao. Something special was in the air. Bravo Lorenzo, mantieniti professionale a dare del lei agli ospiti, è così che si fa. Ne sono molto grato per questa tua collaborazione e il contributo portato per anticipare il voltiamo pagina con il last minute di oggi. Hai mai trovato qualcosa che ti ha affascinato, stupito e che ha segnato anche poi il tuo percorso futuro? A me è capitato, sinceramente, trovai uno scatolone in una casa in costruzione ed era pieno di una pubblicazione mensile, era portata dagli Stati Uniti d'America, poi fortunatamente tradotta, era il Reader Digest, che è questa pubblicazione che dà piccoli brandi classici e non della letteratura, e confesso che nonostante la mia giovane età mi affascinò tantissimo e mi ha stimolato nella lettura. Un piccolo episodio, una casualità, ma è capitato. Sì, anch'io ho trovato questi estratti che facevano dei libri una volta in casa mia, erano estratti di romanzi in cui racchiudevano l'essenza e da lì mi sono innamorato. Simile. Sì, simile, una cosa abbastanza simile, parallela, infatti. Bene, sono le 8 in punto, noi andiamo in pubblicità, rientriamo con il voltiamo pagina ufficiale di oggi mercoledì, ricordiamo l'appuntamento, ringraziamo per questo contatto Simona Cantelmi che sarà presente come, diciamo così, accompagnatrice per la conversazione con Federico Tombrino e il 24 maggio alla Confraternita dell'Uva alle ore 18:30 il Baule. Ok Lorenzo, puoi andare a lavorare. Grazie mille, buona giornata. Ciao, a tutti, ciao.